giorni sguardi inverni sfuggono dagli occhi. Non puoi trattenerli anche se lo vuoi. Tutto cambia dentro questa corsa, anche quelle cose che sono più importanti. Ogni cosa ha un tempo per esistere.